me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddeboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfori perché spesso chi ti giudica è il primo che poi ti trucida. Quando lanciare un sasso vale più di una supplica. Ci hanno detto non è tutto oro ciò che luccica, ma l'hanno detto perché è tutto l'oro ciò che luccica. Ora, voglio gridare fortissimo. La vita fa schifo, il panorama è bellissimo. Let you go. Who knew my heart could beat so quick? My life I give away for this. Don't care what anybody sees. Prendo quei pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia. Mangiare la polvere, condirsi la terra, noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra. Con 24.000 baci, probabilmente Giuda ci avrebbe sterminati. Sentirsi inadeguati, sentirsi uno dei tanti, l'occasione persa fa l'uomo ladro di rimpianti. Rapacinati con l'animo colpevole, denuncia la tua vita per felicità ingannevole. A tutti noi cresciuti dentro camere oscure, dove ogni stronzo mente la verità pure. It's a beautiful disaster.